Simone, parla tu, sei il più vecchio. Tu sei anche stato modesta uccello. Che ne pensi? Che ne pensi? Lasciato in questa stanza, guaio per frati, ma per noi speranza. Guaio per frati, ma per noi speranza. Ma lo metta, amore mio, speriamo nel testamento dello zio. No, non è. Ah, no, non c'è. Lo vedi che si sta con il